deve essere tenuta in considerazione assolutamente dallo Stato italiano, anche perché il problema è molto sentito, non è un caso eccezionale, riguarda tantissime coppie e anche ovviamente tantissimi bambini, soprattutto perché in Italia è di fatto fallito l'affidamento condiviso, quindi tantissimi sono i genitori che non hanno il diritto ad avere relazioni effettive e continuative con i loro figli. Il nodo dell'applicabilità della sentenza della Corte di Strasburgo può essere risolto? Può essere risolto, deve essere risolto aggiornando la legislazione attuale, che sarebbe anche all'avanguardia. Ripeto, l'affido condiviso è uno strumento assolutamente positivo, ma di fatto nella realtà non viene applicato e non funziona. E poi utile sarebbe anche l'utilizzo dello strumento della mediazione, che ovviamente va fatta in maniera adeguata, con supporti diciamo, legislativi, giuridici, con l'assistenza di legali e anche con l'assistenza magari di psicologi, ma può essere un modo per risolvere in maniera positiva, pacifica, delle controversie tra adulti, appunto tra genitori, che però sappiamo ricadono purtroppo sempre troppo negativamente sui figli minori.